Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Parliamo ancora una volta di un rapporto, questa sera il rapporto ICOM 2013. ICOM è l'Istituto per la Competitività, è un'associazione fondata nel 2005 il cui fine è la sensibilizzazione rispetto ai temi dell'innovazione e della competitività. E quello di ICOM è un rapporto piuttosto ampio di cui a noi interessa soprattutto uno dei capitoli, quello relativo al cosiddetto mobile ticketing, ovvero la possibilità di fare il biglietto dei mezzi pubblici in mobilità, per esempio tramite il cellulare. Cosa che oggi tipicamente è possibile per quanto riguarda il trasporto ferroviario, per esempio Trenitalia, e quello aereo, ma non tanto per quanto riguarda il trasporto locale. Ne parliamo con Stefano Da Empoli, che è docente di economia politica dell'Università Roma 3 e anche fondatore di ICOM. Buonasera Da Empoli. Buonasera. Allora, Da Empoli, la prima cosa che voi evidenziate in questo rapporto è che c'è grande interesse da parte dell'utenza per questo servizio di mobile ticketing, appunto. È assolutamente così. Sono il 65% degli intervistati, secondo una recente ricerca del Politecnico di Milano, affermano di essere molto interessati al mezzo. E si calcola che in Europa entro il 2016 saranno almeno un possessore su 8 di smartphone a utilizzare questo servizio. Ecco, questo per dire insomma che una volta tanto non sarà difficile far passare un'innovazione, diciamo, gli utenti sono pronti. Ecco, senta, voi avete appunto fatto questo monitoraggio, quali sono, le chiedo, le città più avanzate oggi su questo fronte e quali modelli stanno sviluppando, perché ce ne sono diversi? Diciamo, ci sono due modelli direi principali. Il primo ha visto come capofila Firenze, ma è stato seguito da altre città, da ultimo Mantova da novembre, basato sul semplice invio di SMS a un numero dedicato e con addebito diretto, diciamo, sul conto telefonico, e tra l'altro la comunità che non richiede una registrazione precedente, quindi può essere fatto. Quindi in questo caso uno salta sul bus, per intendersi, manda a un numero un SMS, gli viene caricato sul proprio debito telefonico e naturalmente ci sarà bisogno di un accordo tra l'operatore telefonico e chi fa il servizio di trasporto, no? Magari un secondo prima di saltare sull'autobus. Certo. E non un secondo per dopo. Evitare ritardi, eccetera, che poi chiaramente ai fini del controllo. Ecco, perché infatti questa era una cosa che le volevo chiedere, se il mobile ticketing in generale aumenta o riduce il portoghesismo. Diciamo. Beh, sì, si pensa che lo riduca, okay, in realtà, okay, perché dà più possibilità naturalmente di accesso, anche meno scuse, se vogliamo. Certo. Dicevamo, un primo modello è quello di Firenze, seconda invece modalità? Seconda modalità invece è basata sul cosiddetto Near Field Communication, sì. NFC, che in italiano insomma può essere tradotto come comunicazione in prossimità. NFC, ne abbiamo parlato tra l'altro qui in trasmissione, quel sistema di comunicazione contactless in cui si avvicina una smart card piuttosto che un cellulare, esatto, no? Un lettore, e si possono fare diverse transazioni, aprire il tornello della metropolitana oppure pagare un biglietto, lei mi sta dicendo. Assolutamente, no? Assolutamente sì. E qui il pagamento avviene fondamentalmente tramite un cosiddetto portafoglio elettronico, o comunque c'è un certo credito sostanzialmente che viene, sì, precedentemente acquistato e viene scalato attraverso l'acquisto. Certo, cioè, quindi nel primo caso c'era di mezzo l'operatore telefonico, nel secondo caso c'è più di mezzo una banca, insomma uno. Esatto. Qualche città sta anche andando oltre il mobile ticketing strettamente detto, no? Assolutamente, è interessantissimo l'esperimento di Vicenza, dove addirittura non solo con SMS si compra il biglietto, sì, ma addirittura si può prenotare il servizio in alcune ore della giornata, nelle ore serali. E questo è decisamente interessante, perché vuol dire che questo strumento, da semplice mezzo di pagamento, diventa un mezzo per cambiare radicalmente il modo in cui noi concepiamo il trasporto pubblico urbano, e quindi è estremamente interessante, quasi un trasporto on demand, almeno in alcune aree, in alcuni momenti della giornata e in alcune aree geografiche. E quindi diciamo decisamente innovativo, perché insomma, può rivoluzionare insomma un settore come l'abbiamo concepito finora. Grazie Stefano da Empoli. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.